Se ascolto il mio cuore, mi parla di te, della mia vita che hai cambiato in un attimo. Solo con le tue parole sincere e magiche, quello che io ero ormai non c'è più. Grazie a te, mio angelo. Le tue labbra, baciami.